Capitolo 10, ottobre, Torrejas di panna. Ingredienti: una tazza di panna, 6 uova, cannella, sciroppo. Preparazione: si prendono le uova, si rompono e si mettono da parte gli albumi. I tuorli si mescolano con la tazza di panna. Si sbattono questi ingredienti fino a ottenere un composto morbido e spumoso. Lo si versa allora in una casseruola precedentemente imburrata. Questo composto non dovrà superare dentro lo stampo un dito di altezza. Lo si mette sul fornello a fuoco basso e lo si lascia rapprendere. Tita stava preparando queste torrejas su precisa richiesta di Gertrudis perché era il suo dessert preferito. Da molto tempo non lo mangiava e voleva gustarlo prima di andarsene dalla fattoria l'indomani. Si era trattenuta una settimana, molto più a lungo di quanto aveva previsto. Gertrudis, mentre imburrava la casseruola dove Tita avrebbe versato la panna montata, non smetteva di parlare. Aveva così tante cose da raccontarle che neppure parlando per un mese, giorno e notte avrebbe potuto finire la sua conversazione. Tita l'ascoltava con grande interesse, anzi, temeva che smettesse perché in tal caso sarebbe toccato a lei parlare. Sapeva che le rimaneva solo quell'ultimo giorno per raccontare a Gertrudis il suo problema e sebbene morisse dalla voglia di sfogarsi con sua sorella, aveva dei timori riguardo all'atteggiamento che avrebbe assunto nei suoi confronti. Il soggiorno di Gertrudis e della sua truppa in casa, anziché oberare di lavoro Tita, le aveva dato un'enorme pace. Con tanta gente in casa e nei cortili, era impossibile chiacchierare con Pedro e tantomeno incontrarlo nella camera oscura. Ciò tranquillizzava Tita perché non era ancora pronta per parlare con lui. Prima di farlo voleva analizzare bene le possibili soluzioni da dare al problema della sua gravidanza e prendere una decisione. Da una parte c'erano lei e Pedro e dall'altra c'era sua sorella, in totale svantaggio. Rosaura non aveva carattere, ci teneva molto a fare bella figura in società e continuava a essere grassa e puzzolente dato che nemmeno il rimedio che Tita le aveva consigliato era riuscito a ovviare al suo grave disturbo. Cosa sarebbe accaduto se Pedro l'avesse lasciata per causa sua? Come l'avrebbe presa? Che ne sarebbe stato di speranza? Ti ho annoiata con le mie storie, vero? Oh no, di certo, Gertrudis, perché dici questo? Beh, solo perché ti vedo con lo sguardo assente da qualche minuto. Dimmi che cosa ti succede. Si tratta di Pedro, vero? Sì. Se lo ami ancora, com'è che stai per sposare John? Non mi sposerò più con lui, non posso farlo. Tita abbracciò Gertrudis e pianse sulla sua spalla in silenzio. Gertrudis le accarezzava i capelli con tenerezza, ma senza perdere di vista il dolce di Torrejas che era sul fornello. Sarebbe stato un peccato non poterlo mangiare. Quando stava per bruciare, allontanò Tita e con dolcezza le disse: «Lasciami soltanto togliere questo dal fuoco e poi continui a piangere, sì?» Tita non poté trattenersi dal ridere pensando che Gertrudis in quegli istanti fosse più preoccupata del futuro delle Torrejas che del suo. Certo, questo atteggiamento era comprensibile perché da una parte Gertrudis ignorava la gravità del problema della sorella e dall'altra aveva una gran voglia di mangiarsi le torrejas. Asciugandosi le lacrime, Tita ritirò la casseruola dal fuoco perché Gertrudis, nel tentativo di farlo, si era scottata una mano. Quando la panna si è raffreddata, si taglia a quadretti, non troppo piccoli perché altrimenti rischiano di sbriciolarsi. Si montano le chiaraneve per intingervi i quadretti di panna, che verranno poi fritti nell'olio. Per ultimo si passano nello sciroppo di zucchero e si spolverano di cannella in polvere. Mentre lasciava raffreddare la panna per poterla poi tagliare, Tita confidò a Gertrudis tutti i suoi problemi. Prima le fece vedere come le si era ingrossato il ventre e come i vestiti e le gonne non si allacciavano più, poi le raccontò che al mattino alzandosi aveva capogiri e nausea, che il seno le faceva così male da non poterlo toccare. E infine, come chi rifiuta qualcosa, le disse che tutto questo forse, chissà, probabilmente, magari, era dovuto al fatto che era incinta. Gertrudis l'ascoltò con calma, senza impressionarsi mai. Nella rivoluzione aveva visto e sentito cose molto peggiori di queste. E dimmi, lo sa già, Rosaura? No, non so che cosa farebbe se venisse a sapere la verità. La verità, guarda, Tita, la verità vera è che la verità non esiste. Dipende dal punto di vista di ognuno. Per esempio, nel tuo caso la verità potrebbe essere che Rosaura si è sposata molto cinicamente con Pedro e non gliene è importato un bel niente che voi due vi amavate veramente, è vero o mi sbaglio? Sì, è così, ma si dà il caso che adesso la moglie sia lei e non io. E che cosa importa? Quel matrimonio ha potuto modificare ciò che tu e Pedro provate davvero? No. No, vero? Ma certo, perché questo amore è uno dei più veri che io abbia visto in vita mia. E sia tu che Pedro avete fatto lo sbaglio di tacerne l'autenticità, ma siete ancora in tempo, vedi? Mamma è morta, il cielo sa quanto non sentisse ragione, ma con Rosaura è diverso. Lei conosce la verità e deve capire, e c'è di più, credo che in fondo l'abbia sempre saputa. Così a voi non rimane altro che far valere la vostra verità, punto e basta. Mi consigli quindi di parlare con lei? Senti quel che ti dico, questo è il mio consiglio, perché intanto non incominci a preparare lo sciroppo per le mie torrejas. Lo dico per proseguire perché si sta facendo tardi. Tita accettò la richiesta e iniziò a preparare lo sciroppo, senza perdere un solo dettaglio delle parole della sorella. Gertrudis era seduta davanti alla porta della cucina che dava sul cortile posteriore. Tita era dall'altra parte del tavolo e voltava le spalle alla porta, per cui le era impossibile vedere Pedro che veniva verso la cucina trasportando un sacco di fagioli per nutrire la truppa. Gertrudis, con la grande esperienza acquisita sui campi di battaglia, calcolò strategicamente il tempo che Pedro avrebbe impiegato ad oltrepassare la soglia per sparargli in quel preciso istante queste parole. Sarebbe bene che Pedro sapesse che aspetti un figlio da lui. Fece centro, e con successo. Pedro, fulminato, lasciò cadere il sacco per terra. Moriva d'amore per Tita, che questa volta si voltò spaventata e vide che Pedro la guardava, commosso fino alle lacrime. Pedro! Che combinazione che stia passando di qui. Mia sorella deve dirle qualcosa. Perché non andate a parlare nell'orto mentre io finisco di preparare lo sciroppo? Tita non sapeva se recriminare o ringraziare Gertrudis per il suo intervento. Più tardi avrebbe parlato con lei, ora però non le rimaneva altro che parlare con lui. In silenzio, Tita diede a Gertrudis il recipiente che aveva in mano, dove aveva iniziato a preparare lo sciroppo. Tirò fuori dal cassetto del tavolo un foglio stropicciato sul quale era scritta la ricetta e lo lasciò a Gertrudis, se mai ne avesse avuto bisogno. Quindi uscì dalla cucina seguita da Pedro. Certo, Gertrudis aveva bisogno della ricetta, senza di essa non avrebbe saputo far niente. Con attenzione, Gertrudis cominciò a leggerla e a cercare di seguirla. Si sbatte una chiara d'uovo in mezzo quartiglio di acqua per ogni 2 libbre di zucchero. O per ogni panetto di zucchero, 2 chiare d'uovo in un quartiglio d'acqua per 5 libbre di zucchero e nella stessa proporzione per una maggiore o minore quantità. Si porta a ebollizione lo sciroppo finché sale 3 volte, facendo diminuire il bollore con un po' d'acqua fredda da aggiungere ogni volta che leva il bollore. Si toglie dal fornello, si lascia riposare e si schiuma. Si aggiunge poi ancora una piccola dose di acqua con scorza d'arancia, anice e garofano a piacere e si lascia bollire. Si schiuma di nuovo e quando il composto ha raggiunto consistenza vischiosa lo si cola con un setaccio o una pezzuola robusta. Gertrudis leggeva la ricetta come se leggesse dei geroglifici. Non capiva quanto zucchero fosse, 5 libbre. E neppure cosa fosse un quartiglio di acqua e tantomeno cosa si intendesse per consistenza vischiosa. Era lei a essere nel pallone. Andò in cortile a chiedere aiuto a Cencia, ma Cencia stava finendo di distribuire i fagioli della prima colazione ai correligionari del quinto tavolo. Questo era l'ultimo che le rimaneva da servire. Ma una volta servito quel tavolo avrebbe dovuto apparecchiare quello vicino, perché i rivoluzionari che avevano ingerito la loro sacra colazione al primo tavolo dovevano iniziare a pranzare. E così via fino alle 10 di sera, quando finiva di servire la cena all'ultimo tavolo. Era quindi più che comprensibile che fosse molto irascibile e aggressiva contro chiunque si avvicinasse a chiederle di fare un lavoro extra. Gertrudis non faceva eccezione, per generalessa che fosse. Cencia si rifiutò tassativamente di aiutarla. Lei non faceva parte della truppa, né aveva alcun motivo di ubbidirle ciecamente come facevano invece tutti gli uomini al suo comando. Gertrudis ebbe allora la tentazione di ricorrere alla sorella, ma il buon senso glielo impedì. Non poteva assolutamente interrompere Tita e Pedro in quel momento, forse il momento più decisivo della loro vita. Tita camminava lentamente tra gli alberi da frutta dell'orto. Il profumo di zagare si confondeva con quello di gelsomino caratteristico del suo corpo. Pedro, accanto a lei, la teneva sotto braccio con infinita tenerezza. Perché non me lo aveva detto? Perché prima volevo prendere una decisione. E l'ha presa? No. Beh, io credo che prima di prenderla è bene che sappia che per me avere un figlio da lei sarebbe la più grande gioia possibile. E perché fosse completa vorrei che ce ne andassimo molto lontano da qui. Non possiamo pensare solo a noi. Al mondo ci sono anche Rosaura ed Esperanza, che ne sarà di loro? Pedro non poté risponderle. Non aveva pensato a loro fino a quel momento e in verità non voleva far del male alla sua figlioletta o non rivederla più. Ci doveva essere una soluzione buona per tutti, doveva trovarla. Di una cosa però era certo, Tita non se ne sarebbe andata dalla fattoria con John Brown. Un rumore alle loro spalle li allarmò. Qualcuno camminava dietro di loro. Pedro lasciò subito il braccio di Tita e, facendo finta di niente, si girò per vedere chi fosse. Era il pulche, che, infastidito dalle grida di Gertrudis in cucina, cercava un luogo migliore dove dormire. Decisero comunque di rimandare la conversazione a un altro momento. C'erano troppi estranei in casa ed era rischioso parlare di argomenti così privati. In cucina, Gertrudis non era riuscita a ottenere dal sergente Trevigno che finisse lo sciroppo come lei voleva, nonostante gli ordini dati. Era pentita di aver affidato a Trevigno una missione di tale importanza. Ma siccome Gertrudis aveva chiesto a un gruppo di ribelli chi di loro conoscesse il valore di una libra, ed egli immediatamente aveva risposto che una libra corrispondeva a 460 grammi e un quartiglio a un quarto di litro, lei aveva pensato che se ne intendesse di cucina, e invece non era così. Per la verità, era la prima volta che Trevigno la deludeva in qualche incarico. Ricordava una volta che aveva dovuto scoprire una spia che si era infiltrata nella truppa. Una soldatessa, che era l'amante del traditore, era riuscita a smascherarlo. E allora quello senza pietà le aveva sparato un colpo prima che lei lo potesse denunciare. Gertrudis stava tornando dall'aver fatto un bagno nel fiume e l'aveva trovata che agonizzava. La soldatessa era riuscita a darle un indizio per identificarlo. Il traditore aveva un neo rosso a forma di ragno all'interno della coscia. Gertrudis non poteva mettersi a ispezionare tutti gli uomini perché, oltre a prestarsi a interpretazioni equivoche, la cosa avrebbe potuto insospettire il traditore e farlo fuggire prima di venire identificato. Allora diede l'incarico a Trevigno. Neppure per lui era una missione facile. Ciò che avrebbero potuto pensare di lui era anche peggio di quanto avrebbero potuto pensare di lei se si fosse messa a curiosare tra le gambe degli uomini della truppa. Trevigno, allora, aspettò pazientemente di arrivare a Saltillo. Dopo la loro entrata in città, si mise a passare in rassegna tutti i bordelli esistenti e a conquistare tutte le prostitute di ciascuno dei loro, servendosi di non so quali artifici. Il suo metodo migliore era comunque questo. Trevigno le trattava come signore, faceva sì che si sentissero delle regine, e con loro era molto educato e galante, mentre faceva l'amore e recitava versi e poesie. Non ce n'era una che non cadesse nelle sue reti e che non fosse disposta a lavorare per la causa rivoluzionaria. In questo modo non ci vollero più di 3 giorni per scoprire il traditore e per preparargli una trappola con la complicità delle prostitute sue amiche. Il traditore entrò in una camera del bordello con una bionda ossigenata detta la Ronca. Dietro la porta lo aspettava Trevigno, il quale chiuse la porta con un calcio e uccise il traditore a pugni con inusitata violenza. Appena morto, gli tagliò i testicoli con un coltello. Quando Gertrudis gli chiese perché l'avesse ucciso con tanto furore e non semplicemente sparandogli, egli rispose che era stato un atto di vendetta. Tempo addietro un uomo che aveva nella parte interna della coscia un neo rosso a forma di ragno aveva violentato sua madre e sua sorella. Quest'ultima glielo aveva confessato in punto di morte. In questa maniera aveva lavato l'onore della sua famiglia. Quello era stato l'unico comportamento selvaggio di Trevigno. Per il resto era una persona delicata ed elegante anche quando uccideva. Lo faceva sempre con grande dignità. Dopo la cattura della spia, a Trevigno era rimasta la fama di donnaiolo incallito, fama che non era molto lontana dalla realtà. L'amore della sua vita però era sempre stata Gertrudis. Per molti anni aveva cercato invano di conquistarla senza perdere le speranze, finché Gertrudis aveva incontrato nuovamente Juan. Allora si accorse di averla perduta per sempre. Attualmente le faceva la guardia come un cane, vigilando alle sue spalle senza staccarsi da lei neanche per un secondo. Era uno dei suoi migliori soldati sul campo di battaglia, ma in cucina non ci sapeva fare. Tuttavia, a Gertrudis rincresceva mandarlo via, perché Trevigno era un sentimentale e quando lei lo rimproverava per qualcosa si attaccava alla bottiglia. Non le restava quindi che affrontare il suo errore di scelta e fare in modo che tutto andasse per il meglio. Lessero insieme con molta attenzione la ricetta, tentando di eseguirla alla lettera. Se si vuole uno sciroppo più limpido, come quello che si usa per addolcire i liquori, dopo le operazioni menzionate si agita la casseruola o recipiente che lo contiene e poi lo si lascia riposare e decantare. Oppure, che è la stessa cosa, lo si travasa dalla pentola muovendolo il meno possibile. Nella ricetta non si spiegava cos'era la consistenza vischiosa, così Gertrudis ordinò al sergente di cercare la risposta in un grosso libro di cucina che si trovava sulla credenza. Trevigno si sforzava di trovare l'informazione desiderata, ma siccome sapeva leggere a malapena, seguiva lentamente con il dito le parole del libro e Gertrudis si spazientiva. Si distinguono molti gradi di cottura dello sciroppo liscio al punto liscio alto, al punto perlato alto, soffiato, al punto di piuma, al punto di caramello, sciroppo a consistenza vischiosa. Oh, finalmente, ecco qui la consistenza vischiosa, mia generalessa. Vediamo, porta qui, stavo per perdere la pazienza. Gertrudis lesse al sergente le istruzioni velocemente ad alta voce. Per sapere se a questo grado si immergono le dita in una brocca d'acqua fredda e si mettono nello sciroppo, poi si rimettono in fretta nell'acqua. Se lo sciroppo, una volta raffreddato, diventa come una palla e si lavora come una pasta, vuol dire che è cotto al punto giusto. Hai capito? Sì, credo di sì, mia generalessa. Ti conviene, altrimenti giuro che ti faccio fucilare. Gertrudis era finalmente riuscita a riunire tutte le informazioni che cercava. Ora mancava solo che il sergente preparasse bene lo sciroppo e così lei avrebbe finalmente potuto mangiare le tanto desiderate torrejas. Trevigno, tenendo ben presente la minaccia che pesava sul suo capo se non cucinava correttamente per il suo superiore, portò a termine la missione nonostante la sua inesperienza. Tutti si congratularono con lui. Trevigno era felicissimo. Egli stesso portò a Tita in camera sua una torreja che le mandava Gertrudis perché desse la sua approvazione. Tita non era scesa a mangiare e aveva trascorso il pomeriggio a letto. Trevigno entrò in camera e posò il dolce su di un tavolino che Tita usava quando voleva mangiare lì e non in sala da pranzo. Lo ringraziò molto e gli fece molti complimenti perché le torrejas erano veramente squisite. Trevigno si rammaricò che Tita si sentisse poco bene perché avrebbe desiderato chiederle di concedergli un ballo alla festa di commiato organizzata in cortile per la generalessa Gertrudis. Tita gli promise di ballare con lui se appena se la fosse sentita di scendere a partecipare alla festa. Trevigno si ritirò in fretta per correre a raccontare ai compagni ciò che Tita gli aveva detto. Non appena uscito il sergente, Tita ritornò a letto. Non aveva nessuna voglia di muoversi. Il bruciore allo stomaco non le permetteva di rimanere seduta a lungo. Pensò a tutte le volte in cui aveva messo a germogliare grano, fagioli, erba medica e altri semi o grani, senza immaginare ciò che provavano nel crescere e nel cambiare così radicalmente di forma. Ora ammirava la disponibilità con cui aprivano la loro pelle e lasciavano che l'acqua li penetrasse liberamente fino a farli scoppiare, perché con essa entrava la vita. Con quale orgoglio lasciavano uscire dal loro interno la prima punta della radice. Con quale umiltà perdevano la loro forma originaria. Con quale piacere mostravano al mondo le loro foglie. A Tita sarebbe piaciuto essere un semplice seme, non dover rendere conto a nessuno di ciò che era in gestazione dentro di lei e poter mostrare al mondo il suo ventre che germinava senza esporsi al ludibrio della società. I semi non avevano questo tipo di problemi, non avevano soprattutto una madre da temere, né paura di essere giudicati. Certo, neanche Tita fisicamente aveva una madre, ma non riusciva ancora a togliersi di dosso la sensazione che le sarebbe potuto arrivare da un momento all'altro un fenomenale castigo dall'aldilà in dono da mamma Elena. Questa sensazione le era molto familiare. La rapportava al timore che provava quando in cucina non eseguiva alla lettera le ricette. Lo faceva sempre con la certezza che mamma Elena l'avrebbe scoperta e invece di farle i complimenti per la sua creatività, L'avrebbe rimproverata seccamente per non aver rispettato le regole. Non poteva, tuttavia, evitare la tentazione di trasgredire le regole così rigide che la madre voleva imporle in cucina e nella vita. Rimase a riposare un po', allungata sul letto, e tornò ad alzarsi solo quando udì Pedro che cantava una canzone d'amore sotto la sua finestra. Tita raggiunse con un balzo la finestra e l'aprì. Com'era possibile che a Pedro saltasse in mente di compiere quell'audacia? Appena lo vide, capì il perché. Si vedeva lontano un miglio che era completamente ubriaco. Accanto a lui Juan lo accompagnava con la chitarra. Tita si inquietò molto. Avesse voluto il cielo che Rosaura fosse già a dormire, altrimenti ne sarebbe nato un pandemonio. Mamma Elena entrò furibonda in camera e le disse: "Hai visto cosa stai combinando? Tu e Pedro siete due svergognati! Se non vuoi che in questa casa scorra del sangue, vattene, dove tu non possa fare del male a nessuno prima che sia troppo tardi." "Chi dovrebbe andarsene? Lei. Mamma, sono stanca di venir tormentata. Mi lasci in pace una volta per tutte." "Non lo farò, finché non ti comporterai come una donna per bene, ossia con decenza." "Che cosa significa comportarsi con decenza? Come faceva lei?" "Sì. E allora è quello che faccio. E lei non ha avuto una figlia illegittima?" "Sarai dannata se osi parlarmi così." "Anche lei. Chiudi quella bocca. Chi credi di essere?" "Credo di essere ciò che sono, una persona che ha tutto il diritto di vivere la sua vita come meglio ritiene. Mi lasci in pace una buona volta. Non la sopporto più, anzi, la odio. L'ho sempre odiata." Tita pronunciò le parole magiche per fare sparire mamma Elena per sempre. L'imponente immagine della madre cominciò a rimpicciolire fino a trasformarsi in un filo di luce. Man mano che il fantasma svaniva, un senso di sollievo invadeva il corpo di Tita. Il bruciore allo stomaco e il dolore al seno incominciarono a diminuire. I muscoli dell'addome si rilassarono, lasciando fluire la mestruazione. Questo flusso, trattenuto per tanti giorni, mitigò le sue pene. Respirò profondamente e con calma. Non era incinta. Ma i suoi problemi non erano finiti. La piccola luce alla quale si era ridotta l'immagine di mamma Elena iniziò a girare vorticosamente. Attraversò il retro della finestra e schizzò verso il cortile come un petardo impazzito. Pedro, nella sua sbornia, non si era accorto del pericolo. Cantava felice e streghita di Manuel Ponce sotto la finestra di Tita, circondato da rivoluzionari ubriachi quanto lui. Neppure Gertrudis e Juan presentirono la disgrazia. Ballavano come due adolescenti innamorati alla luce di una delle tante lampade a petrolio disseminate nel cortile per illuminare la festa. All'improvviso il petardo si avvicinò a Pedro, girando all'impazzata, e con violenza fece esplodere in mille pezzi la lampada vicino a lui. Il petrolio in fiamme gli raggiunse in un attimo il volto e il corpo. Tita, che stava finendo di prendere le normali precauzioni richieste dalle mestruazioni, sentì il baccano provocato dall'incidente di Pedro. Si affacciò precipitosamente alla finestra e vide che Pedro correva per il cortile trasformato in una torcia umana. Allora Gertrudis lo raggiunse, si strappò la gonna di dosso e con essa coprì Pedro dopo averlo gettato a terra. Tita non seppe come fece a scendere le scale, ma arrivò da Pedro in soli 20 secondi. In quel momento Gertrudis gli stava togliendo i vestiti bruciati. Pedro urlava di dolore. Aveva bruciature in tutto il corpo. Un gruppo di uomini lo trasportò con molta attenzione fino in camera sua. Tita prese a Pedro la mano non ustionata e non si separò da lui. Mentre salivano le scale, Rosaura aprì la porta della sua camera. Percepì subito un forte odore di penne bruciate. Si avvicinò alla scala con l'intenzione di scendere a vedere cosa stesse accadendo e proprio lì si imbatté nel gruppo che trasportava Pedro avvolto nel fumo. Tita, accanto a lui, piangeva sconsolata. Il primo impulso di Rosaura fu di correre in aiuto di suo marito. Tita fece per lasciare andare la mano di Pedro e permettere a Rosaura di avvicinarsi a lui, ma Pedro, gemendo e dandole per la prima volta del tu, la supplicò: "Tita, non andartene, non lasciarmi." "No, Pedro, non lo farò." Tita prese nuovamente la mano di Pedro. Rosaura e Tita si guardarono un momento, come sfidandosi. Rosaura capì che era di troppo. Tornò in camera e vi si chiuse a chiave. Vi rimase per tutta la settimana. Tita, non volendo staccarsi da Pedro, ordinò a Cencia di portarle delle chiare d'uovo sbattute con olio e molte patate crude ben schiacciate. Questi erano i migliori antidoti che conosceva contro le bruciature. Gli albumi si spalmano con una piuma sottile sulla parte ustionata e si rinnova l'applicazione quando il linimento si asciuga. Poi occorre fare degli impacchi di patate crude schiacciate per ridurre l'infiammazione e per calmare il dolore. Tita passò tutta la notte ad applicargli questi rimedi casalinghi. Mentre gli metteva l'impacco di patate, osservava l'amato volto di Pedro. Non rimaneva traccia delle sue folte sopracciglia e delle lunghe ciglia. Il mento squadrato era diventato ovale per il gonfiore. A Tita non importava che gli restasse qualche segno, ma forse a Pedro sì. Che cosa doveva mettergli per evitare che rimanessero delle cicatrici? Nacia le fornì la risposta, che a sua volta le era stata data da Luce dell'Alba. La cosa migliore da fare in questi casi era mettere sulle ustioni di Pedro della corteccia di Tepesco Uite. Tita uscì di corsa in cortile senza badare al fatto che fosse notte fonda, fece alzare Nicolas e lo mandò a procurarsi la corteccia dal miglior stregone della regione. Alle prime luci dell'alba riuscì a lenire un poco il dolore di Pedro e a farlo dormire per breve tempo. Approfittò per uscire a dare l'addio a Gertrudis, perché da tempo sentiva i passi e le voci degli uomini della truppa che preparavano i cavalli per andarsene. Gertrudis parlò a lungo con Tita. Era spiacente di non poter rimanere ad aiutarla dopo l'infortunio, ma le era giunto l'ordine di attaccare Zacatecas. Gertrudis la ringraziò per i momenti tanto felici passati accanto a lei. Le consigliò di non smettere di combattere per Pedro e prima di congedarsi le diede una ricetta che le soldatesse usavano per non rimanere incinte. Dopo ogni rapporto sessuale si doveva effettuare un'irrigazione con acqua bollita e qualche goccia di aceto. Juan si avvicinò e interruppe la loro conversazione per dire a Gertrudis che era giunta l'ora di partire. Juan diede a Tita un forte abbraccio e fece a Pedro, tramite suo, i migliori auguri di pronta guarigione. Tita e Gertrudis si abbracciarono con profonda emozione. Gertrudis montò a cavallo e partì. Non cavalcava sola, ma portava al suo fianco nella bisaccia la propria infanzia, chiusa in un barattolo di Torrejas di Panna. Tita li guardò partire con le lacrime agli occhi, anche Cencia, ma la differenza era che le sue erano lacrime di felicità. Finalmente avrebbe potuto riposare. Quando Tita stava per rientrare in casa, udì un grido di Cencia. Non è possibile! Tornano! In realtà sembrava che qualcuno del gruppo stesse tornando indietro. Ma non era possibile individuare chi fosse a causa del polverone che si era alzato dai cavalli quando se n'erano andati. Aguzzando la vista, videro con piacere che si trattava del calesse di John. Era già di ritorno. Tita, vedendolo, si sentì profondamente confusa. Non sapeva che cosa fare e che cosa dirgli. Da una parte era felicissima di rivederlo, ma dall'altra si sentiva molto a disagio nel vedersi costretta ad annullare la promessa di matrimonio. John le venne incontro con un gran mazzo di fiori, l'abbracciò commosso e, baciandola, si accorse che qualcosa era cambiato. Continua. Prossima ricetta: fagioli alla tescucana.